L'argenteria spariva, ladri di stelle e di jazz, così eravamo noi, così eravamo noi. Pochi capivano il jazz, troppe cravatte sbagliate, ragazzi scimmia del jazz. Così eravamo noi, così eravamo noi. Sotto le stelle del jazz. Ah, ma quanta notte è passata. Marisa, svegliami, abbracciami. È stato un sogno fortissimo. Le donne odiavano il jazz. Non si capisce il motivo. Scimmia cammina, o forse danza, chissà. Duemila enigmi nel jazz, non si capisce il motivo. Settimane enigmistiche sotto la luna del jazz. I whisper I love you, I whisper I love you.